Radio 24 Reportage. Ore 20, lezione di ronda, di Alice Cason. In generale, secondo me, Varese è una città molto sicura, molto tranquilla. Ovviamente, come in tutte le città, la zona della stazione purtroppo è una zona non mal frequentata, però magari che bisognerebbe un attimo sistemare. Però, insomma, io mi sento abbastanza sicura a vivere qui. Signorina, non è niente di tranquillo, eh? Non è niente di sicuro, non è niente di tranquillo. Ore 19.30, stazione di Varese Casbeno. Comincia a imbrunire. Sono appena scesa dal treno e mi sto dirigendo verso Villa Recalcati, che è la sede della provincia di Varese e anche la sede del corso di formazione per gli osservatori volontari per la sicurezza. Io sono di Azio, provincia Varese. Quanti anni hai? Io ho 23. Secondo me maggior controllo sarebbe meglio, comunque collaborare anche con le forze dell'ordine è una bella cosa, comunque magari dove non vedono loro, vediamo noi che siamo del paese, sappiamo anche un po' la situazione, soprattutto nei ragazzi di oggi che magari possono sfuggire alle forze dell'ordine, giustamente loro passano, magari sembra che non c'è niente, però nel frattempo magari lì c'è qualcosa di grosso, droga, ad esempio anche le baby gang, comunque i teppisti del paese, perché comunque oggi come oggi qualsiasi ragazzino va in giro armato con un coltello. Siamo nel cortile di Villa Recalcati, sono ormai le 8, la lezione di oggi dovrebbe cominciare tra poco. Ai due lati del cortile, separati dalla fontana, ci sono due gruppi, da una parte il gruppo dei giovani e da una parte il gruppo degli adulti. Sono per ora circa una ventina da una parte e una ventina dall'altra. Sono entrate finora due donne, i partecipanti sono una settantina, mi hanno detto, e sei sono appunto le donne. Sono già nella protezione civile e amo la sicurezza. Voglio vedere un po' di pulizia. C'è tanta gente che ha bisogno di aiuto e non se ne accorge nessuno. I ragazzi per la droga e le persone anziane che vengono truffate, che si ritrovano uno davanti alla porta non sanno cosa fare, o che gli saltano dentro dalle finestre non sanno cosa fare. Forse vedendo solo un giubbino speriamo che rassicuriamo un po' le persone. In realtà le forze di polizia mi hanno detto che Varese in Lombardia è una delle città più sicure dove vivere e che le strutture del territorio sono più che sufficienti per garantire la sicurezza. La prima ronda operativa in Italia è a Varazze, in Liguria. Varese è la prima provincia che istituisce un corso di formazione per aspiranti rondisti. Secondo il decreto Maroni dell'agosto del 2009 è possibile il coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale. Il corso è organizzato dalla prefettura. È proprio in prefettura, tra l'altro, che secondo il decreto deve essere istituito un registro nel quale devono essere registrate le associazioni di volontari della sicurezza. Uno sente sempre che ci sono episodi nei nostri comuni di persone che fanno così. Uno dice, ostia, l'avevo saputo. Dice, vabbè, ok, uno conosce le vie vicino, così. Alla sera, il giretto, quando che è così, possiamo farlo anche noi. Si dà una mano, ecco, ma non è che uno deve andare a sostituirsi, ci mancherebbe altro, ecco. Sì, quante persone ci dovrebbero essere per avere un ordine pubblico sotto controllo nella maniera... È impossibile. Sono già molto chiari i limiti, ecco, non è che uno deve andare a fare lo Schwarzenegger o quell'altro, come si chiama, il Rambo, ma per l'amor del Signore, lo scopo è proprio quello lì, di cercare di avere la quiete nei nostri paesi. Che non ci siano armi sono perfettamente d'accordo, anche perché io non ho né la voglia né la capacità di sparare o di farmi sparare da da qualcuno, io voglio controllare il territorio. Probabilmente se ci davano qualcosa in più del telefonino, non lo so, poteva essere lo spray al peperoncino piuttosto che qualcosa, sarebbe stato meglio. Già girare in due o tre comunque aiuta. Credo che ne sia stata fatta una questione un po' troppo politica di questa cosa, per cui per far tacere le polemiche di chi non accettava queste cose qua, che io chiamo ronde perché non vedo perché non si devono chiamare ronde, allora ci hanno tolto tutto se non il telefonino. Io penso che qualcosa in più ce lo potevano dare. Questo non vuol dire che andiamo in giro a picchiare la gente, perché io sarei il primo che non lo fa, però perlomeno per difendere noi e dare il tempo alle forze dell'ordine di arrivare. Quelli che non sono d'accordo su queste ronde, gli auguro di trovarsi ladri in casa come li ho trovati io a casa mia alle 3 di notte mentre dormivo, forse cambiano idea. Ora sono all'interno, la gente sta chiacchierando in attesa che cominci il corso e in attesa che arrivino i registri per firmare. È consentita al massimo un'assenza, perché il corso è propedeutico poi alla partecipazione appunto a queste ronde. Adesso firmiamo i registri di presenze, in modo che siamo obbligati tutti a fare le 7 lezioni, giustamente, per farci capire quello che è giusto fare e quello che non si può fare, perché tanti di noi non sanno cosa non possono fare. Noi sì, perché siamo una società che operiamo già da tantissimi anni nella sicurezza. Buonasera a tutti, sono il capitano Mineo, comando la compagnia dei carabinieri di Varese. Diciamo che sono il responsabile dei carabinieri che operano a Varese e poi nell'Interland, per cui da Besozzo a Gavirate, Marnate, Arcisate, Bigiù, Porto Celesio, questo a grandi linee per presentarmi. Io sono onorato di avere una sala così piena. Se siete d'accordo, insomma, se non ci sono, credo saremo insieme un'oretta abbondante. Proverò a essere più sintetico possibile, meno pesante, vista l'ora. Non so se avete mangiato, dovete farlo, per cui in ambedue le ipotesi, insomma, è bene che non duri tanto. È appena cominciata la seconda di 7 lezioni del corso di formazione. Le poltrone della sala convegni Luigi Ambrosoli sono quasi tutte occupate. Ho contato 67 partecipanti. Lo stesso per mi vale. Mi chiamo Iocca. Da dove vieni? Dal Congo, Repubblica Democratica del Congo. 8 anni che sono qua. Mi hanno scritto, il mio comune mi ha mandato una lettera a casa, mi ha fatto questo proposito di essere come osservatore di volontariato per la PACO sicurezza del mio paese. Perché no? Tutti nel mondo oggi prono per la sicurezza, è una buona cosa, e poi per noi stranieri dobbiamo portare un più per lo sviluppo di questo secondo patria che noi abbiamo scelto come residenza. Ritornando a piedi in stazione verso le 9:30, è buio, incontro diverse persone. Un uomo che gentilmente mi dà informazioni stradali, una signora anziana e un gruppo di quindicenni, credo. Abito fra le due stazioni, però io alle due stazioni, quando vado a casa, non le tocco, passo in mezzo, non ho paura. Sono una persona che non ho paura, però ci sono i ragazzini che sono delinquenti, perciò una ronda dà sicurezza alle persone che hanno paura. Io non ho paura. Poco prima di arrivare in stazione, dove prendo il treno per Milano, incrocio 6 ragazzi, avranno 15 anni. Sono incuriositi dal microfono, io ne approfitto e chiedo a loro che cosa pensano delle ronde. No, non c'è bisogno, però... C'è già tanta di quella polizia, questi angeli urbani non servono niente. Non servono, i Power Ranger. Fuori da Varese. Ci sono troppi sbirri qua, non servono gli angeli urbani. I sbirri girano troppo. A parte che devo dire, gli angeli urbani sono meno stronzi dei poliziotti. Ecco. Questo da dire. Perché gli sbirri hanno l'autorità, allora con noi fanno quello che vogliono.